bello quel Beretta che avevo io. Era un Beretta con la 3 iniziava, finiva con un 3, 303 modello, 300, una cosa del genere. Una 302 era il mio. Ricordavo un 3. Ok. Bravo. Sì, io. Poi c'è questa differenza appunto tra tiro, ma è lo stesso per le armi corte. Pensa che a un cittadino italiano gli hanno contestato che in casa sua si era difeso con una pistola da tiro, non era da, come si dice, uno è tiro, l'altro è l'uso comune, come si dice, arma comune, non era arma comune ma era arma da tiro, e sono andati a contestargli che si era difeso con un'arma, però poi non so come sia finita, non me lo ricordo. Cioè, arriva uno a ammazzarti e non puoi prendere qualsiasi mezzo per difenderti, secondo Luca Budelli, no? In Italia, siamo in Italia, non hai capito. Perché magari quella da tiro era calibro 22, ci spara anche un bambino, capito? E non sbagli. Invece con quella da difesa personale, cazzo, sono calibri più grossi, magari. E puoi sbagliare, col cazzo che sbaglio, sia con quella grossa che con quella piccola. C'è cioccolata d'acqua invece. Ciao Emanuele. Natali, però a me sa cosa non piace delle semiautomatiche, cioè quelle di uso arma comune, hanno le tacche di mira fisse, cioè quelle che hanno le tacche regolabili, tacca di mira, quella di dietro, non il mirino, sono tutte da tiro. Ma che senso ha una pistola come quella che avevamo provato in chiave tanti anni fa? Che senso ha una Beretta 98 che punti in un punto e becca da tutt'altra parte? Invece la Sig Sauer era il 226, però non mi ricordo se aveva le tacche fisse oppure no, era un laser, tu miravi la bottiglia a decine di metri e la bottiglia scompariva, polverizzata. Quella era precisa, cioè dove miri becchi, o meglio non era precisa l'arma, era giusto il tiro, cioè il mirino era bello allineato con la canna. E ho dovuto fare così con la Tanfuglio che avevo io. La Tanfuglio, cazzo, sparava così in basso che per prendere uno al cuore dovevi sparargli in testa. Dimmi tu. E allora avevo preso uno di quei mirini, con le tacche di mira regolabili, e così me l'ho regolata e l'ho fatta precisa, se no non ci potevi sparare con quella pistola, cazzo. Infatti, cazzo, ho vinto parecchie medaglie con quella pistola, però l'avevo modificata io, gli avevo messo l'attacca di mira regolabile, capito? Sì, però troppe limitazioni, cioè per queste fesserie, vabbè, lo dico, non sono fesserie. Per esempio mi ricordo che mi faceva un'osservazione tra tiro giusto e tiro preciso, cioè la precisione dell'arma è una cosa. Poi non so se posso usare il termine giustezza, cioè gli organi di mira non sono giusti, non sono tarati per quell'arma, capite? Quindi sbagli. Cioè se metti l'arma in morsa è precisa perché tutti i colpi vanno lì, però gli organi di mira, cioè mira in un punto e becca in un altro, non sono giusti, il tiro non è giusto, mi hai capito? E ho capito, sì, e infatti io me l'avevo rigurata qualcosa con la... L'ho dovuto mettere a zero proprio l'attacca di mira, perché era troppo in basso sparava. Cazzo, l'ho venduta a uno di sorso quella pistola, cazzo, me ne sono pentito, perché era leggera, leggera come la Glock. La Glock è precisa, vedi, dove spari va il colpo, c'è poco da fare. Quella è precisa ed è leggera allo stesso tempo. Facile da smontare anche quella Tanfuglio, ma tutto sommato quella Tanfoglio già andava bene, quella, però l'avevo personalizzata io, gli avevo fatto lo scatto, gli avevo, insomma, era tutta modificata quella lì. Anche la Glock gli ho fatto lo scatto io, come tocchi faccio il tiro, infatti è pericolosissima. Se tu la devi usare per difesa personale, non va bene, hai capito? Bisogna che gli rimetti lo scatto come era prima, in modo che sia più duro per partire il colpo, capito? Il mio è leggero leggero, infatti non sbaglio sparando anche in rapida successione. E soprattutto devi stare molto attento a non mettere il dito nel grilletto. A chi sicuri non ha la Glock. Ne ha tre automatiche, ma tu come tocchi il grilletto le fai, le disinserisci le sicure, le automatiche. Vabbè, d'altronde Natali, gli americani con i revolver da una vita che sparano, il revolver doppia azione, no, non hanno sicuro di nessun tipo. Prima il tamburo chiudi, come tiri spara, cioè, e lì sta alle persone stare attente. Cioè, una volta mi ricordo un poliziotto, su YouTube c'era il video, un poliziotto nero di colore, stava dando una lezione ai nuovi, alle nuove reclute su come maneggiare l'arma, mette un colpo di carro, va a mettere in fondina l'arma e gli spara sul piede, davanti a tutti. Per fortuna era un po' di striscio, no? Però lui allora l'ha tolta la pistola e stava andando a maneggiarla ancora, e la gente è presa dal panico, sentivi che ci stavano scansando. E una volta ho tirato un colpo di ruccio a mano a un barrancello, lo stavo insegnando io, e lui non aveva capito che sulla Glock non deve mettere il dito nel grilletto, anzi su nessuna pistola. Se lì sono il grilletto, te lo metti quando c'hai la canna sul bersaglio e boom, se no ti spari nelle balle. Sì, sì, vabbè, quello. Poi se lo fai al poligono, un errore del genere, guai, ti cacciano. Prima si punta sul bersaglio e poi solo quando devi sparare metti il dito sul grilletto. Aspetta che mi chiama mamma. Sì. Attento, briciola, ci sei? Briciola! Finisci. Va bene, te devo andare in cucina, faccio una camomilla, mamma che ha un leggero mal di pancia. E tutto qui. Poi se riesci a svegliare gli altri che c'erano sul canale. C'era anche Emanuele, mi era entrato prima, vabbè, sei riuscita a modulare, bene, e poi se ci siete rientro dopo, ciao. Ciao, già sono qui io. Stavo chiamando Emanuele, non risponde, grazie. Emanuele, briciola, briciola. Giulia, chi è? Natalino. Vabbè, Emanuele si è abissato, boh, lo stavo chiamando negativo. Tutto bene? C'era Pomponio, c'era Gianni, c'era Luca, chi altri c'era? Vabbè, Franco era forse in macchina. No, Franco sta facendo una commissione in quel di Porto Torres e quindi non risponde perché non è in macchina. Ah, ha poco compreso. E quindi, vabbè, stavo parlando, per esempio, quel problema Natali che tira in basso, troppo in basso, c'ha quella cacchio di gamo ad aria compressa col CO2, cioè tu miri perfettamente al centro, lo metti proprio il pallino sul centro del bersaglio e tende a scendere subito, capito? Non è come lo schema che mettono loro nelle istruzioni, no, che devi sparare alla base del centro, cioè tu vedi il centro che ha una certa grandezza, tu metti il pallino alla base come se il colpo salisse, no? Qui c'è un cacchio, va molto molto in basso, soprattutto che dopo che spari i primi 20-30 colpi la pressione scende nella bomboletta. Non ti diverti perché devi sempre correggere il tiro alzando un po' il mirino rispetto alle tacche di mira. Qualcuno aveva consigliato di limarlo, che già è basso il mirino, di limarlo piano piano e bene, in modo che così devi alzare un po' la punta del coso per farlo collimare con la tacca di mira, però io di rovinarla non mi va, che se poi la devo rivendere deve risultare intonsa, deve risultare come nuova, capito? Se la vendo. Lo so, ma poi il tiro non è mai dritto, fa la parabola qua, tu devi pensare che fa la parabola il tiro, non è mai dritto, devi trovare il modo come mirare per poter beccare il centro. Quella che ho io, per esempio, quella lì cazzo è precisa a molti, invece la Danfoglio va via che su YouTube, che maggio ho dovuto comprare la tacca di mira regolabile, se no un cavolo ci sparavi. E poi dovevi stare attento agli strappi pure, perché gli avevo fatto lo scatto, io l'avevo fatto più leggero. Io con quella lì andavo bene perché c'avevo il mirino sportivo. Eia. Sì, in realtà se lo so, è a parabola va il tiro. Però non dico io, cioè tiri a 5 metri e già scende. C'hanno potenze ridicole anche, che praticamente lo dicono fino a 7,5 joule, no? A filo. Poi la vai a misurare, ci avrà, se, no, guarda, se ti va bene 3 joule con la bomboletta piena, poi se ne scende già a 2 joule. Cioè a quel punto, quel piombo pesa ovviamente, a quel punto tanto vuole pigliare una pistola soft tire con i pallini di plastica a 6 mm e quella tira alto, e quella tira già più alto, perché il pallino pesa zero, pesa 0,2 grammi. Infatti devi, quello lì c'ha il pallino più pesante, se è in acciaio è più pesante, sì. E con la forza dell'aria, se non è potente il coso, il tiro dell'aria, non fai nulla. È vero, è così. Quando si scarica la bomboletta è anche meno, è meno potente. Sì, ma infatti questa Gamo non dico che mi abbia proprio deluso, però me l'aspettavo un po' migliore. I commenti li avevo letti, però, e prima di comprarla sapevo che molti erano insoddisfatti, perché io il tiro lo faccio al bersaglio di carta, no, quello graduato. E molti quella la prendono per tirare di barattoli, le bottiglie di birra. A me non me ne frega che buchi la bottiglia di birra, a me interessa che vada a bersaglio il tiro. Se no, se manca quel requisito non serve a niente una pistola così per il divertimento da sala. Vuoi vedere che se sparo io con quella sparo bene? Ma certo, se alzi un po' il mirino, gli correggi il tiro, gli fai, guarda, mezzo, a poco poco, mezzo millimetro di mirino, un millimetro che sale oltre l'attacca di mira, allora dai al centro, grazie. Però avrei preferito che andasse bene con gli organi di mira suoi, senza modificare, senza picchiare il tiro, capito? No, io con la Glock sparo, devo vedere tutto il mirino, tutto, proprio, non la punta, dove è tutto il mirino nell'attacca di mira, e sparare con gli occhi aperti, tutti e due, e il tiro risulta giusto. Te l'avrei fatta provare, è che lì non hai spazio, cioè troppi pochi metri. Io qua posso fare dal bagno alla cucina, quindi deve fare tutto il bagno, parte del corridoio, tutto il salone e tutta la cucina. Posso disporre di 12 metri reali di tiro, reali, misurati col telemetro, o come si chiama, quello misuratore laser di distanza. Vabbè, quello lì, 12 metri reali, Lo so. Però quando vai in Campania vengo pure io e vediamo un po', al limite mi compro le cartucce per quella 22 che c'ho, così almeno mi diverto. Solo che c'è un problema, in base a 1500 metri, quella lì cazzo è pericolosa, cazzo. Me ne ha tolto il bersaglio l'istruttore perché sentiva la palla bruciendi nel campo delle pistole. Infatti guarda, comunque la carabina è, ti dice, anche se depotenziata, stringersi di più, almeno tira dritto, c'ha le tacche regolabili, cioè lì tiri, ne fai pochi perché vuole caricata un tiro alla volta, però almeno dai dove devi dare. Invece le pistole aria compressa lì, piombini, spari tanti colpi a cacchio di cane, però va in basso, cioè. E poi ricordate che scarrellante è quella, essendo scarrellante ha un po' meno di precisione, e me ne sono accorto parecchio, perché io ne ho due, una è scarrellante e l'altra no, quella vecchia che io non è scarrellante ed è più precisa di questa nuova, anche tenuta con due mani e tutto, si nota la differenza. Sì, quelle scarrellanti hanno più movimento, si deve aprire, che poi serve a fare scena, è tutto scena. Io l'ho presa perché era carina di forma, poi c'è nel caricatore ha due tamburi, uno sopra e uno sotto, no? Ce ne sanno 8 colpi sopra e 8 sotto, quando tu finisci i primi 8 togli il caricatore, lo giri, lo reinserisci e hai gli altri 8 colpi, no, già ti riflette un po', però questo del coso è inaccettabile che parla così in basso là, il colpo, capito? Vabbè, adesso che lo so correggere il tiro, però a me non mi piace viziare gli organi di mira, cacchio. Ma lo sai che tutte queste leggi che hanno fatto in Italia è un casino. Gli atleti italiani non potevano andare all'estero a sparare, per esempio. Gli atleti italiani non potevano. Ah, perché avevano il 9x21 e tutti gli altri il 9 para. E allora? Il 9x21 non era accettato all'estero. Adesso l'hanno liberalizzato, praticamente io nella mia cambio solo la canna e boom. Perché sono uguali le cartucce. È che il bossolo mio è più lungo di 2 mm dal para, capito? Però io li cambio solo la canna e vanno bene nel caricatore e in tutto il parabellum, capito? Sì, quella era una mancanza. Per fortuna hanno corretto le cose, ma grazie a Dio. Da quanto esiste quel calibro? Ci siamo voluti quanto? 100 anni per renderlo fruibile dal pubblico. Gianni Lupirum, se l'ascolto, cambio. Io scelgo di dormi stanotte, io. È venuto un amico a trovarmi, Marco Lì, e stava parlando della stufa, quindi dovevo seguire a te e a lui. E ho detto che il 9 para esiste da quanto? 100 anni. Cioè ci siamo voluti 100 anni per renderlo fruibile dal pubblico. Ma qui era considerata arma da guerra, manco le cartucce, si trovavano le cartucce parabelli, erano cavoliacci. Lo sai che io raccoglievo quelle della polizia erroneamente, le caricavo e mi avvisavo che era parabelli a chi la... perché la palla ne usciva di più dal coso, non siccome hanno la stessa altezza, però la palla esce più fuori dal bottolo, e allora le dovevo smontare e torna, perché mi accorgevo che erano parabili, che erano quelle della polizia che dovevano parare. Dammi la scatola delle pastiglie, se no stanno che ti ritrovi senza le pastiglie. Capito Marco Lì? Io le raccoglievo per caricarmele le cartucce, ma molte parabellum finivano in quelle 9x21. E allora gatta, quando io mettevo il bosso, io me ne accorgevo subito. Quando mettevo la palla e la incastravo dentro il bossolo, usciva più fuori, no? E me ne accorgevo che era parabellum. Allora la dovevo smontare, perché se ti trovavano la cartuccia carica parabellum, era arma da guerra per loro. Sì, una menata infatti, ma loro cosa contavano? Tutta la cartuccia, perché se tu mettevi una palla civile, cioè una palla per il 9x21, su cartuccia, su mossolo parabellum, come andava a finire? Cioè loro intendono la munizione intera, no? Ma se tu c'avevi un mossolo sbagliato e la palla che poi magari è la stessa, non so se sia uguale, come grani dico, se è più lunga, se è più corta. uguale al 9 per 21, è solo il bossolo che è più lungo il mio. Il mio la palla entrava di più dentro il bossolo. Invece quello parabellum esce più fuori la palla, perché c'ha il bossolo più corto. Sì, sì, sono 2 mm di differenza, 9x19 il parabellum. E lo sai che in Germania avevano un calibro, credo loro, un calibro 9 tutto loro, era 9x18 e lo chiamavano 9, non mi ricordo, non era il 9 corto, era un altro 9, che credo vi avessero solo in Germania, credo, dovrei controllare. Ci sono tanti tipi di calibro 9. È la stessa cartuccia quella che sparo io, solo che c'ha due, cioè è per non sparare le cartucce 9x21 su quelle militari, hai capito cos'è il discorso? Perché da me entra la 9x19, però ci gioca perché io ho la camera più lunga e mi rovino la pistola. Natali, scusa l'appunto, ma io è un incubo ascoltare te, perché lì si sente più concetta, la TV lunga nella baia, certe volte non riesco a capire nulla. Avevo il microfono più alto, ci avevo, capito? E quindi guarda un po' se va meglio adesso che ce l'ho vicino. Ci ho messo anche una di quelle cuffie semi dentro, che hanno i microfoni. Insomma, oddio, già sento lo stesso, meno di prima, ma non avevi tu quello da tavolo, no? Quello da tavolo sto usando, solo che lo sto usando vicino adesso e poi c'ho anche la cosa antisoffio che gli ho messo dentro per amplificare di meno, se no che ti amplifichi già di più puro. L'ho dovuto abbassare a 2 e ce l'ho mia adesso. Ehi, si sente un po', però meno di prima, era una cosa lucidante. Sembra una microspia da quanto è sensibile quel mic. Ehi, perché ho preso e gli ho fatto una modifica dentro e amplifica che cosa amara, è per quello, è a 2 ce l'ho. Ciappa. Sì, di 9, guarda, avevo una vecchia tabella, perché è vecchio il libro, 9 steer, 9, di tutte le maniere ce n'erano. E c'era 9, sì, 9, un altro nome italiano c'è, aspetta, non mi ricordo, ce ne sono tanti tipi di calibro 9. Eccolo qua, ho trovato il libro, è tutto impolverato su. E questo c'ha le tabelle sia dei revolver dell'epoca. Pensa che il calibro 40 non esisteva in questa tabella, nemmeno. Quella già mi piace già. Quel calibro mi piace, ho imparato al poligono con quella lì, perché l'istruttore mio, siccome non avevo il porto d'armi ancora e non potevo portarmi la mia, la pistola. Allora sparavo la Glock del mio istruttore, che era calibro 40, una bomba è quella. E se no la 357, la 357 SIG. Allora Natali, guarda, i 9, no, poi ci sono i punto 38 che sarebbe un 9, articolo 9, penso europei, allora 9 mm Bergmann Bayard, 9 Browning corto, 9 Browning lungo, 9 Makarov, 9 Mauser, 9 Parabellum, 9 Steyr, 9x18 che è quello, c'è quello tedesco, non c'è il 9x21 perché forse non l'avevano ancora fatto, non lo so, non è in tabella. Poi ci sono i 38 sempre per pistola, non revolver, 38 Special AMU, che non so cosa voglia dire. Poi c'è il 38 Super Auto e basta. Però hai visto i 9 quanti sono? Sono tutti credo europei, Insomma, ognuno ha la sua, però per le gare olimpiche usavano il 9 Parabellum e gli italiani non potevano andare perché avevano il 9x21, perché in Italia era considerato calibro da guerra. Che togliamo? E viceversa aspetta, allora aspetta che guardo, poi ci sono i dati balistici, bla bla bla, ci sono anche quelli di revolver, dai più piccoli ai 4 mm M20, ai 455 Colt Haley, già una fucile, c'è pure munizioni. Lo so Marco, adesso sì, cazzo, io sono da me che non vado al poligono, perché tutti avranno 9 per 19 per equilibrare il calibro con gli altri, sì, e quindi avranno tutti 9 per 19, fa vedere che 9 per 21 non ci farà più nessuno e tocca cambiare la canna della pistola, gira gira. Allora Natali, domanda da $1 milioni per appassionati di armi. Il giustiziere della notte, nel primo film, che arma usa per uccidere? No. Che munizione usa per uccidere? Ma chi? Giustiziere della notte, il primo film. Che munizione usa? Se hai visto il film, se sei amante, forse te lo ricordi. Una 38 mi sembra che avesse. Quasi, calibro 32, era un 32 da revolver e la pistola era una singola azione, sembrava tipo Colt ma un po' più piccola, dimensioni ridotte. Probabilmente era il Colt lungo, corto, io non vi venivo un bel di 32, tutti americani, 32 Colt lungo, Colt corto, c'è Smith & Wesson lungo, Smith & Wesson corto. Poi c'è il 320 Colt lungo, un altro ancora, comunque calibro 32. Sì, ed era tipo una pistola in simulazione tipo Far West, dai. Io c'ho il 3, allora sai a cosa corrisponde il 32? Il 765 Browning, quella che ho io, 32 auto si chiama. Solo che quella che aveva lui era più lunga perché era un revolver. Però è 7,62 il calibro 32, no 7,65 il calibro 32 corrisponde. Sì, sì, quasi 8 mm, quasi, adesso io non li ho mai avuti in mano, quindi non potrei dirtelo al calibro. Diciamo che ci sono le ci sono anche i diametri, delle lunghezze a bossolo, qua c'è diametro palla esatta, credo al centesimo di millimetro è arrotondata. Ah, c'è il cane adesso che me ne è venuto, è sopra di me, poverino, l'ho medicato perché se ne ha tolto dove l'avevano operato, no? Si è aperto attorno al taglio, e allora gliel'ho medicato io. Eia, si è tirato tipo i punti, roba del genere. Ma punti non ne aveva più, però si è scorticato con i dentini il taglio dove c'aveva i punti, quindi glielo torna medicato io. Io ho dovuto anche fasciare e meno male che non è riuscito a togliersela, già due se ne ha tolto di medicazioni questo caso, però non è riuscito a togliersela la garza che gli ho messo per non toccare dove è medicato, perché sennò lui ci lecca la ferita. Eia. Comunque Natali, sì, avevi ragione, allora il 32 è colto lungo perché l'altro è troppo corto come cartuccia, non può essere, si vedeva che era lungo il mosso, allora 7,67 diametro palla. Oh signore, sto andando via quell'amico. Eia, dimmi quando puoi parlare. Sì sì, posso parlare, lo sta accompagnando la 50. Cosa ti volevo dire, questo era Cibimmi, allora te lo ricordi Antonello Lucifero tu? Di nome sì, però conosciuto no, io non è che andassi a conoscere, c'avevamo la graffettina nostra di Giovincelli, però il nome mi è familiare. Tizio Natali, hai azzeccato il 32 Colt lungo da revolver, 7,67 mm la palla. E allora è modificato, no, il 32 comunque è 7,65, vuol dire che non corrisponde con il calibro italiano, capito? Perché io ho 32 auto ed è 7,65 Browning per l'esattezza. Ah, Ah, ma auto, quelle da pistola, io sto dicendo quelli da revolver. Ma guarda la differenza che c'è. Allora, tra il 22, tra il 32 lungo e il 32 corto della Colt, la palla è molto più grande. Una è 7,67 e una è 7,98 come millimetri. Addirittura il 32 Smith & Wesson ha la palla da 8 mm tondi tondi. Figurati. Invece il 32 auto italiano è 7,65. Capito. Va bene nella pistola, diciamo. Però, gatta, hanno cambiato anche le dimensioni della palla questi. Sì, cambia tutto, lunghezza bossoli, dimensioni palla, per farsi la concorrenza tra Colt e Smith & Wesson. Le pressioni sono le più diverse, le pressioni sono variabili, no, non assai, da 1100 a 1200 atmosfere, bar, no, la pressione massima della polvere. E poi hanno i bossoli più lunghi, i revolver. È un casotto, sono più potenti di revolver. Oh yeah. Gianni, tu sì. Luca, tu sì. Niente, non si sa chi è. Ehi, sono affetti da micropanico, evidentemente. Oh, certo che in un paese grande dell'Italia, cioè in Italia il calibro 6 mm Flaubert, no? Sì, Flaubert, che non ha polvere, c'ha l'inneschino anulare e la pallina da 6 mm tonna. Niente, porto d'armi per una vaccata del genere. Signori, però io, ma per carità. Il 22 è anulare stesso, quello che ho io. Il 22 è long rifle. Quello lì non è a detonatore. C'ha, è anulare la nitrocellulosa. Sì, non ha innesco, vuol dire, sì. No, per dire, cioè loro mettono, paragonano i 6 mm Flaubert, che è ridicolo, va bene per forse bucare il cartone, forse. Praticamente dovrebbe avere quasi la stessa... no, balle. 70 joule, 70 joule. Non è poco, non è poco, il 6 mm Flaubert. Crevo meno, però te lo paragonano comunque a un calibro 9 che ha 500 joule, boh, vabbè. Se ti becca ti ammazza, quindi è logico che è nisba. Sì, vabbè, però, vabbè, esageriamo, siamo fedelemo come l'America. Hai visto tempo fa, si stavano sparando all'elementare, un bambino ha portato la pistola forse del padre, fregata da qualche cassetto, credo che stesse sparando o all'insegnante o ai compagni di scuola. Cioè adesso in America, negli Stati Uniti, si sparano all'elementare pure. Perché questi cazzo degli americani nella Costituzione hanno il coso che devono essere armati per difendersi. Capito, quindi armi ce ne sono molte, le trovano molto facilmente. Non armi legali, giustamente, perché non è facile comprarle, sta diventando come qua. Logicamente è sempre molto più facile di qua, qua siamo più bloccati. Sì, che poi a loro la tanto decantata libertà che piace a loro della Costituzione è la libertà di portare armi. Se non avessero libertà di portare armi, ma fossero altrettanto liberi, non gliene fregherebbe niente. Ma in continuo, sparatori alle università, alle superiori, alle medie, adesso anche alle elementari, cosa vuoi di più? Tra un po' anche all'asilo, se già non l'hanno fatto. E comunque è diversa la situazione, devi avere comunque il porto d'armi per portare la pistola in America. Se tu non hai il porto d'armi, non la puoi buttare fuori da casalduia. Tu te la puoi comprare, però non la puoi portare. Addirittura non la puoi neanche comprare la pistola prima di 21 anni. Perché a 18 puoi comprare il fucile, ma non la pistola. La pistola ci vuole il porto d'armi per portarla, però la puoi tenere anche nel cassetto della macchina. capito. Invece qua, manco nel cassetto della macchina la puoi tenere la pistola. Perché sennò è abbandono dell'arma qua. Sì, ma infatti sono dei deficienti loro anche. Cioè, come fai a lasciare un'arma in un cassetto della macchina incustodito? Basta che uno ti apra la macchina per fregarti qualche bonetta, trova la pistola e se la prende. Capito? E io. Poi, Natalia, io adesso non sono molto pratico, però ricordati che negli Stati Uniti hanno 50 stati e ognuno si fa le leggi un po' a modo proprio. Certi stati, come il Texas, sono più permissivi e anche forcaioli, e certi stati invece, come la California, stanno riducendo molto le, per quanto possibile, le armi. Poi, vabbè, le lobby delle armi sono potentissime negli Stati Uniti, quindi più di tanto non riescono a fare, però le modalità poi possono differire da stato a stato. Addirittura in uno stato degli Stati Uniti, secondo me il Texas, tu puoi andare a manifestazioni pubbliche, politiche, con l'arma in spalla, cioè puoi andare armato con l'arma in vista, un paese di matti sono, No. Anche in Texas, secondo dove vai, la pistola non la puoi portare, la devi lasciare nel cassettino della macchina. Perché lo stava dicendo quel poliziotto italiano che sta facendo il camionista lì. Addirittura non si è potuto portare la pistola appresso perché doveva passare un altro stato e non sapeva se era in regola, capito? Perché il portarma suo era del Texas e se tu passavi un altro stato magari non valeva. Eia, Claudio il texano, eia. Ogni tanto si prende della scelta fatta, dice sono al limite della sopportazione, ci prendono in giro, cose, cioè, lì ti devi ammazzare di lavoro, ma ammazzare nel vero senso della parola, ti devi ammazzare di lavoro, se poco a poco ti viene un infortunio, che sei impossibilitato a lavorare, lì in poco tempo sei fritto, perché finisci in un attimo le eventuali riserve di denaro, e poi si è giocato un casino di soldi lui, in borsa, e ha perso tutto, è logico che è disgustato. Da avere un bel di soldi a stare bene e a non avere un cacchio, ce ne passa differenza, che si deve ammazzare il lavoro. Aveva camion sui e cosa varia e ha preso tutto. E comunque guarda, credo che in almeno un'occasione tutte queste lamentele che lui fa verso gli Stati Uniti, verso eventuali colleghi, eventuali datori di lavoro, qualcuno le ha sentite, magari o era italo-americano, gliel'hanno riferito, e lui credo che qualche scocciatura l'abbia avuta per le sue opinioni sugli Stati Uniti che lui mette sul canale YouTube. Quindi sempre quello dico io, occhio a quello che dite, che i muri hanno orecchie. Chi è questo? E infatti è proprio così. Scocciature ne avrà avuto sicuramente, non è ben visto evidentemente. Sei andato chi era? Luca ha ripreso? No, sono Gianni, dai. Ho finito di piegarmi tutta la roba, di conservarmela, adesso posso anche stare tranquillo. Ah, eri sveglio, allora io credevo che fossi dormito, come dicono qua a Sassari. No, già mi sono un po' appisolato, però poi mi sono alzato e ho ritirato tutta la roba dallo stendino, ero tutta piegata e conservata. Cavagava e cavagava. Forse c'era qualcuno sotto che voleva entrare. Lo facciamo venire avanti. Avanti chi c'era sotto Gianni? Faccio la propagazione da Teia. Perché c'ho lo squelch inserito io, fanno intendere un rigettore io. Oh, Natalia e Gianni, comunque avete visto come ci sono intere quartieri tipo quello di Philadelphia, Kensington, un paese di zombie, di morti viventi. gente distrutta dalla droga, che è entrata per sbaglio, che praticamente vivono nelle tende a bordi delle strade. Sembra che stia andando e peggiorando l'America. Ma se l'America è grande, ci sono tanti quartieri e ogni quartiere c'è il suo perché. Chi è stato fuori per tanto tempo è rientrato negli Stati Uniti nella propria città, perché ogni città ha le sue zone, è rimasto scioccato, vedeva decine di serrande di negozi chiusi. Prima era fiorente l'attività, no? Magari 20-30 anni prima, dice decine di negozi, tutta una bruttura sociale di gente tossica fatta, gente bevuta, gente accampata per terra, e si sa, sta aumentando un po' questa cosa qui. E Stati Uniti non è più un paradiso, l'altro l'ha detto anche il Texan, non è più il paradiso di 50 anni fa come credevamo tutti noi. Oggi bisogna andare negli Stati Uniti, no Marco? Vai qua in città, ne trovi anche qua, non ti preoccupare che... Sì, la cosa sta senza ombra di dubbio peggiorando da tutte le parti, è così. Anche qua negozi chiusi, drogati ce ne sono a go-go. E vabbè, anche a Natalino ti propongo la bamba. No, non a me personalmente, non mi è mai capitato che spaccino alla luce del sole, è pacifico perché li ho visti io spacciando, però l'hanno proposta a un mio conoscente. Sempre questi nidoni, non so. E allora? Per carità, ci siamo messi in casa certe persone, tra poco ti chiuderà a noi fuori, tanto sono prepotenti. Il nigeriano è delinquente di natura. Sì, perché i senegalesi sono bravi, io ho fatto amicizia con tanti senegalesi, addirittura ce li ho anche su WhatsApp, eccetera. Quelli che vendevano fuori dal negozio erano in gamba, poi c'è Bar di Buco Nieto, che parla sassarese meglio di un sassarese. Adesso sono un po' che non lo vedo, però mi ha detto che stava piazzando la bancarella a Porto Torres perché il sindaco gli ha dato il permesso e invece se la mette a Plattamona, ha detto che gli mettono multe, gli sequestrano la Roma, invece così il sindaco, c'è il permesso del sindaco, non gli fanno nulla. E se ne va lì via mare sotto quelle tettuie lì a vendere. E infatti, e quello è educato, sono educati poverini questi senegalesi. Non sono come i nigeriani sono tutti delinquenti, spacciatori, rapinatori, scippatori, magnaci, e li vengono i sobbagazzi. Dimmi tu adesso come si può fare con questi qui, vogliono diventare loro i padroni e noi gli servi. E già la zona del corso ce l'hanno conquistata tutta, non può più nessuno disastrare i chimici, tutti i gatti niente. E oltretutto ci hanno fatto il circolo, ci hanno fatto lì, se mia moglie teme andare da Antonio per poter prendere la Faini, me la devo far portare da quello di Via Nura, se quando devo prendere la Faini, perché mia moglie di notte non ci va lì, no? E tu pieno di niente, già è no che in Viale dei Muragli ogni tanto vedi un cabugnie di cabuzzendi, fa vedere se vede polizia, che si cose così, a chi si vuole a spaccia in carriera. È un casino. Siamo circondati da questa gente, si prendono sia i soldi del reddito di cittadinanza e poi dallo spaccio guadagnano, quindi qua restano, a Milano devi vedere, Blumonti è stato anche accoltellato. Qua c'era uno che la polizia non è riuscita a prenderlo, che scippava le donne e se ne fuggiva, ma ancora la polizia è riuscita a pigliarla lì giù. Soffrimi maledetti. Vuole tutti impiegati pure dai nuovi, cosa ci fanno? Io guarda, i senegalesi li avrei lasciati perché si guadagnano il pane onestamente, vendendo la roba, sono onesti, però questi qua nigeriani proprio dalla faccia ci vedi, Bacari dai. Guarda, io ne conosco uno che prestava i soldi addirittura a un altro amico mio, se voglio, siccome lo conosco, gli chiedo i soldi e me li presta, questo qui mi gigante bravo, senegalese questo qui. Sì, perché hanno le cose della fratellanza, capito, questi senegalesi. Io a un certo punto Omar si chiama quello che conosco io, che veniva fuori del negozio, e lo vedevo cantando, e diceva: Omar, cosa stai cantando? No Gianni, preghiera. Sì, perché loro pregano 5 volte al giorno, quelli che sono musulmani, capito? Cazzo, è una cosa che non si crede, sono più religiosi di noi, 5 volte al giorno prega il musulmano. Allah è grande, ma lo mette il suo profeta. Ora Tarì, ce lo vuoi vedere ridendo, che facevo il maiale, facciamo. Siamo di cava dalle risate, no maiale no, maiale no. Per forza, perché per loro è un animale impuro, infatti loro perché non lo mangiano il maiale, perché la leggenda dice che si è mangiato a Maometto. Ah così è, questa non la sapevo. E comunque per farlo ridere, lui diceva maiale no Gianni, maiale no, ci metteva a ridere. Sì, perché ha capito che era uno scherzo nei suoi confronti. Perché il maiale loro lo considerano un animale impuro, infatti non lo mangiano il maiale loro, capito? Quello si chiama Omar Sal, è bravissimo. A me quando passavo mi chiamava, mi diceva Giannanelli. E allora, a chi sabbia ti chiamavi Gianni, Tuzzinosi. Cioè addirittura per far temere i musulmani gli americani cospargevano i proiettili del fucile di carne di maiale, perché dice che non vai in paradiso se ti colpisce qualcosa, se muori a causa del maiale. Ah, vuoi sentire una storia? Io avevo, cioè conosco questa persona che adesso purtroppo non c'è più, ed era in Arabia Saudita, andava a lavorare, e ha detto che se volevi vedere il cuore dei musulmani dovevi fare lo scorreggio. Quando scorreggiavi dice che ti scappava la gamba del vate, perché dicevano che il tuo spirito andava dentro il loro corpo, capito? E là scappavano tutti, dice che toccavano i piedi a sedere quando correva. C'è queste cose, allora chissà cosa cazzo pensa niente quando scorreggi. Ma vai cazzo, è una cosa che non si crede, i musulmani. Oh vabbè, gli americani erano in basso, lo facevano a vero, ma fatemi i musulmani. di mettere la carne del maiale nella punta del proiettile. Perciò io dico per la difesa urbana di caricare i calibri 12 le cartucce a lardo salato. Come guardi mai? Qui c'è la rosoria di Parava con sale grosso, cazzo, quando andavamo a prendere i fichi, che poi non erano manco suoi, c'era un muretto e dopo il muretto suo c'era questo albero di fichi, e noi da bambina andavamo a mangiarli, no? E ci sparava con i cose, con sale grosso. Come ti do Carusango, Carusai, li brinchi di fai, e poco brigimi, Rosari. E infatti l'avevano denunciata. I bambini curareti raccogliendo fiori innocenti e lei sparava con, li mandava i cani, sparava col fucile. E se la mara chi lo fai? E nemmeno cazzo, para a sale grosso, cazzo. Non ti ammazzava, ma cazzo. Ti faceva male, ti pigliava a culumi, cazzo. Lì ti becca e come tocca il sangue, il sale, mi. Cazzo ti frigge di brutto. E già te credo, lo credo, e lo so da quando c'ho magari delle ferite che magari tocco il sale e mi brucia di brutto, figurati poi con la potenza del fucile che ti spara, immaginati cosa ti invasi, te lo fa entrare dentro brutto. E non è quello il brutto. Marco, tu hai mai guidato la fucilata di assai? No, nessun tipo, però tira dei bambini, io mi sembra una cattiveria. inutile. Mamma mi diceva che i bambini andavano alla sua campagna a raccogliere fiorellini, volaventi. Cioè, c'è bambini innocenti e lei li manda a beccare e quando non bastava beccare sparava anche col fucile a sale, capito? E un giorno che è venuto a casa a dirgli che andava a prendere i figli, a mamma, mamma gli ha detto, non faccia più venire a suo figlio che prende i fichi, non so che cosa, lei già è abituata a fare dello, se no li sparo col sale, gli ha detto. E mamma ha detto, lei già è abituata a farlo, continua a farlo, continua, se no come la mettono dentro. E vabbè, oh, seconda di che in quello fruttetto orto entravi a fregare roba, non dico col fucile, ma già ti seguivano con col randello in mano, mamma mia. Marco, questo qui l'albero era fuori dalla sua campagna, c'era il muretto, dopo il muretto c'era questo albero, che erano fichi selvatici, non erano manco fichi piantati, fichi erano buoni perché erano buoni, però erano di quelli selvatici che crescono da soli. E lei non voleva manco che ci avvicinassimo al muretto, capito? Per paura che entravamo nella campagna sua. Ah, lì fuori era, e allora cosa vuole, cosa pretende? Poi ha detto, l'hanno denunciato, così è. E allora, se era, noi ci arrampicavamo sul suo muretto, per quello che, capito, non voleva, ci arrampicavamo sul suo muretto per prendere i fichi, ci mettevamo in piedi, eravamo bambini, per arrivare a prendere i fichi, ci mettevamo sul suo muretto, capito? Sì, aia. Bei tempi, dai, quello persino io ho apprezzato quelle cose lì. Adesso tutto palazzi su palazzi. Io sono passato dalle parti di via, tipo via Carso, no? Senta, io ricordo fine anni 70 com'era quella zona. Passo dopo 30-40 anni. Tutto palazzi su palazzi, non ci sono più quei piccoli frutteti che c'erano prima, no, tutto sparito, tutto palazzi su palazzi. E invece qua via Baldetta, la zona di casa, le carrube sono sempre rimaste. Io mi ricordo che da piccolo andavamo via Baldetta a mangiare a garruba, quella che mangiano i cavalli, dolce dolce. E ce ne sono diversi alberi anche vicino a casa, capito? È la zona di carruba quella. E anche da grande, che sono adesso, mi vergogno a dirlo, qualcuno me la mangio. Guarda, le carrube piacevano anche a mamma e lì le prendeva la standard reparto ortofrutta, l'unico che ce l'aveva poi, che avevano un odore come di piedi un po', no? Le carrube, e a lei piaceva il sapore. Ho detto, no, non le mangio di quella roba, è troppo secca, no, non mi piace. Allora, la carruba tu la devi succhiare e poi sputtare, mica la ingui. Io la mastico per sentire il sapore e poi la sputo, non la tengo in bocca, capito? Non la inguio. Ah, così, vabbè, già, io stiamo parlando degli anni 70, no? Non me ne ricordo più. E un giorno se viene a casa te la faccio assaggiare, se vieni vicino a casa. Ce n'è un albero che ne fa a gogo, si riempie tutto, specialmente d'estate adesso, si riempie. Strano che i maiali, che i cinghiali non se la mangino, perché lì è tutta in terra, cade, non la tocca nessuno, di solito se la vedono i cinghiali, guai, fanno razzia, forse perché non passano lì, perché ai cavalli piace un bel carrubo, lo sa. Sì, ma lo diceva anche a mamma, da mangiare i cavalli e carrube. Adesso credo che non esistano proprio più, non li trovi né ai normali ortofrutta, cioè fruttivendoli, nemmeno ai centri commerciali. Ma io sinceramente pensavo che in vendita non ce l'era, che era una cosa, è un frutto che così che mangi, se lo trovi e basta, ma in vendita solitamente non l'ho mai visto io, è una cosa rara. Sì, guarda, alla standa fine 70, inizio 80, le vendevano nelle confezioni di polistirolo e poi chiuse dal cielo fan sopra. Sai cos'è? Che se non è matura bene è un belle cosa, si crepa, è come il cacco, dai. Se non è matura bene è le cosa. Non sapevo quella cosa lì. Ui, le carrube. Bene, Nathalie, aspetti, mando un paio di foto così capisci quanto è antica questa roba, La uso da copertina solo e a colori. E quelle che mangiavamo, che chiamavamo noccioline americane, Nathalie, te le ricordi quelle nere, non so? Ma sono sì, vicino in via Marghinotti c'erano gli alberi di nocciolina, lì le facevamo. Una volta mi ero giumagnato, una volta sono andato a casa e avevo fatto una busta piena, mamma me l'ha fatta tutte buttare, no? Non le potevo la vita, sono buttato 3 ore con gli edini. Del centro Schiglia, provincia Ina, che fa chiamata, prego. Avanti chi chiama, la Sardegna risponde. Attenzione Sicilia, si ascolti l'isola sarda. Arrivo in passata, buonasera, qua ci ho messo coordinati in Ina del centro Schiglia. Capa Giovannino, ben sentito, è l'operatore Gianni Doppio Rum della città di Sassari, nord Sardegna, in compagnia dell'amico Natalino Alfa 1 e di Marco Condor. Avanti Marco. Vai Natalino, vai tu prima. Ciao Giovannino, non so se tu mi ascolti, qua è la città di Sassari, nord della Sardegna. Avanti ancora a te Giovannino, 73, e la buonasera. Vi ascolto tutti, ma tanti presenti di segnale, basi di radio. Il problema è quello che arrivate, so che è troppo guerrero, troppo casino. Capo, perché sta salendo la propagazione, adesso qua sta arrivando anche la Spagna. Di dov'è l'amico? No, Sicilia, però non ho copiato che città. Che città sei della Sicilia, Giovanni? Enna, provincia di Enna. Capo, Enna, ho capito. Va bene, come ci ascolti lì di radio e Santiago, se sparisce il macello che si sente, dai. Ma mi arrivate tutto con lo Santiago di Sicilia, ma solo che cosa vuoi, vorremmo la propria... Provo. Qualche volta anche 8-9 di segnale, capito? Però vi ascolto tutti. K, attenzione l'amico di Enna, Enna se copia in Marco da Sassari, vieni avanti. Marco da dove? Siamo nella stessa città, la città di Sassari, nord Sardegna, buonasera. Buonasera Marco, ti ascolto benissimo, arrivo in Santiago di Radio 5. K, il tuo segnale è un 7-8 oscillante, 7-8 oscillante, sì, confermo c'è molta roba sotto, molta propagazione un po' da tutta Europa, K. Sì, sì, è così, è così, purtroppo tante volte arrivano anche quelli che non sono altri canali, senti pure nel canale, ma ti arrivano con 9-10. Ok, Natalino, riprova. Ehi, qua arriva Santiago 8, l'amico Giovannino. Però se dice che non ci ascolta tanto bene perché arrivano certi più furti di noi, non lo so come mi sta ascoltando Giovannino dalla provincia di Enna, Qui è Natalino Alfa 1, avanti. Ti ho ascoltato che ti ho disturbato, purtroppo ti ascolto le linee, fino a che ne so, perché meno di casino. Va bene, signori della Sardegna, un abbraccio per tutti a paracadute. K7351, un salutone ancora dalla Sardegna, ci risentiamo in migliori condizioni alle prossime, vai Gianni. Natalie, io ho dovuto aiutarmi, sennò con due batte tribula. E io che cavolo non mi posso aiutare perché non ho niente per potermi aiutare, ho messo solo la potenza al massimo e basta. Sì, ma io appunto con tutti questi metri di cavo, allora già c'è il filtro e mi ruba un watt, da 3,5 passo 2,5, con tutto il cavo più il giunto, e anche se io non dovessi mettere qua 50, su ne arriveranno 30, massimo 35 riusciranno, male andando 25, miseri 25 watt in antenna, capito? Anch'io ho il filtro anti-TVI qua, quello che conosci tu, e ce l'ho attaccato qua, ho fatto a meno del rosmetro, tanto ce l'ho nell'apparecchio, però il filtro anti-TVI l'ho messo, quindi c'è uno stezzone anche lì, e che vuoi fa? Lineare purtroppo non ce n'è qua, per ovvie ragioni, e quindi non... più di quel tanto non posso uscire. Sì, avete parlato due all'inizio, l'altro chi era, Gianni? Non so, io cambio parlamento adesso e magari vediamo un po' se l'amico Giovanni mi ascolta con questo parlamento. La radio già, prova a abbassare appena di due scatti, perché te la compromette troppo. Deve abbassare la potenza dell'apparecchio, va in saturazione, quanti watt stai dando in ingresso? Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5. Ma si sente la saturazione già, non dovrebbe saturare quello lì, forse gli stai dando troppo ingresso. È strano, mi guarda che il suo è predisposto dalla fabbrica per un ingresso alto, proprio per evitare le saturazioni. Oh, guarda adesso, va bene com'è? Beh, adesso è capibile, già capibile, perché appena si è entrato era tutto manfled saturissima. Così chiaro, guarda, ci sto regolando, si può regolare dal polo. Conta che sta saturando per avvicinanza, anche in parte anche quella. Metta la situazione, così almeno satura la radio. Troppo ingresso c'è quando satura, capito? Ma io lo posso abbassare dal power dell'apparato, se non mi vede regolare. Adesso stai Gianni, in ingresso quanti ne stai dando? Come ce l'hai il power? Quanti watt sopporta quel lineare d'ingresso? 10. Allora più di 10 non gliele devi dare, se gliele dai 8 è anche meglio. L'importante è che non ti saturi la radio, che aumenti solo il segnale. Adesso satura. Negativo, adesso va bene. Quanti watt gli stai dando d'ingresso?